E intanto ci siamo collegati con Piazza dei Colori e in particolare col nostro Alessandro Canella, con cui da questa mattina ci siamo scambiati di posto. Io intanto, Ale, ti chiedo se mi senti e ti saluto. Sì, ciao, buonasera a te Anna, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. E allora, appunto, in Piazza dei Colori, perché poco fa il presidio, che da questa mattina alle 8 era davanti all'hub di Via Mattei, si è mosso in corteo. Quindi intanto ti chiederei di raccontarci un po' com'è cambiata la situazione e anche, appunto, se ci sono riferimenti, come dicevamo prima, rispetto a quanti saranno i migranti effettivamente trasferiti con i pullman. Sì, ecco, infatti il corteo è partito, il presidio ha smobilitato proprio perché alla fine in un qualche modo una quadra è stata trovata, anche se, come dire, non ancora definitiva, e infatti sia i sindacati che i lavoratori, le lavoratrici dell'accoglienza continuano a chiamare in causa il comune, che oggi è parso anche abbastanza timido, anche se poi in un secondo momento ha detto di aver messo in campo alcune azioni come un tavolo per la salvaguardia dei posti di lavoro, un incontro con le famiglie accoglienti per ospitare i migranti appunto fuoriusciti dal lab e altre iniziative di questo tipo. E per dare un po' di numeri, anche se va ricordato che insomma si tratta di persone, non di merci, di pacchi da spostare, come sembra invece, come dire, nelle azioni della prefettura e del Ministero degli Interni, la situazione che si è sbloccata sostanzialmente è questa. Una quarantina di persone ospitate nel lab hanno lasciato la struttura durante la notte, proprio perché si sapeva che oggi sarebbero arrivati i pullman e avrebbero dovuto appunto essere trasferiti. Quindi hanno lasciato la struttura nella notte e saranno in giro sul territorio, non si sa esattamente dove sono. Un'altra trentina di persone è quella che in ogni caso sarebbe stata accolta da altre strutture del territorio, perché magari nuclei familiari o persone in situazione di fragilità, quindi in particolare alcuni sono stati collocati presso strutture della Caritas, parrocchie e situazioni insomma di questo tipo. E, una ventina sono le persone che hanno acconsentito a essere trasferiti a Siracusa, quindi insomma servirà un pullman molto piccolo in realtà, perché sono solo una ventina quelli che sui 183 insomma che hanno accettato di essere effettivamente trasferiti, mentre il grosso delle persone presenti, e stiamo parlando di un'ottantina di persone per arrivare appunto alla somma totale, sono quelle che sono uscite e che però al momento non hanno una collocazione in una struttura di accoglienza. E, ci sono da dire un paio di cose su questa cosa. La prima è che nell'uscire loro hanno firmato una rinuncia all'accoglienza, ma non una rinuncia tout court. Infatti, grazie all'intervento dell'ASGI, dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, hanno firmato una rinuncia, diciamo così, provvisoria, nel senso che contestualmente alla rinuncia all'accoglienza hanno firmato un ricorso contro questo provvedimento, proprio perché, come appunto dice l'ASGI, questa mossa della prefettura è, come dire, è illegittima da molti punti di vista giuridici. E quindi sostanzialmente queste persone nel momento in cui hanno rinunciato all'accoglienza hanno appunto firmato anche un ricorso che consente loro di non essere espulse dal territorio qualora venissero fermate dalle forze dell'ordine per un controllo, e se vincessero questo ricorso potrebbero rientrare a pieno titolo nei percorsi di accoglienza. Quindi questa è la situazione. Di questa ottantina di persone in realtà non finiranno tutte insomma per strada, perché grazie alla solidarietà di attiviste, attivisti privati, famiglie accoglienti, insomma diverse realtà che proprio spontaneamente dal basso, senza l'intervento delle istituzioni, hanno dato la disponibilità ad accogliere anche provvisoriamente queste persone, una quarantina di posti si sono già trovati. Quindi insomma al momento, diciamo così, senza un tetto, a meno che non trovino autonomamente una soluzione, sono circa una quarantina di persone che non hanno un tetto. Quindi questa è un po' la situazione attuale di questa giornata di lotta antirazzista è solidale, insomma. Bologna sta dimostrando di avere almeno una componente di persone che non accetta cose che vediamo in altre città. Questa giornata non è finita perché, come abbiamo già detto molte volte, ora proseguirà alle 18 con un'assemblea cittadina, quindi non solo riservata a lavoratrici, lavoratori dell'accoglienza o attivisti antirazzisti, ma a tutte e tutti coloro che vorranno prendervi parte in piazza Nettuno. Il senso di spostare il presidio e muoversi in corteo fino a Piazza dei Colori ha anche una ragione tecnica. Infatti in Piazza dei Colori, come dire, ci sono molti più autobus rispetto alla zona dove si trova il Lab Mattei, per poter raggiungere il centro. Quindi, oltre a esserci più ombra, che vi assicuro che in questa situazione fa sicuramente comodo, perché chi era in presente da qui dalle 8 di questa mattina, quando è partito il presidio, insomma, ha già preso la sua bella insolazione. Sì, certo, tra l'altro non so se sia cambiato qualcosa, ma appunto, come dicevi, è più facile anche prendere gli autobus, perché via Mattei era proprio chiusa già dalla rotonda, diciamo dall'incrocio con via Massarenti, quindi gli autobus non passavano proprio. Visto che dicevi appunto un po' di numeri in termini anche dell'accoglienza che è stata offerta dalla realtà solidali, singoli, appunto dalle famiglie accoglienti, dicevamo prima, leggendo il comunicato con cui si lanciava il presidio di questa mattina, una delle richieste al comune era quella di pensare a una redistribuzione sul territorio anche attraverso i posti vuoti nei CAS, che tra poco sentiremo anche nelle parole di Nazarena Zorzella dell'ASGI, sono circa 2000, e ti chiederei se in questo senso, visto che già verso l'una il comune pubblicava un comunicato stampa in cui richiedeva un incontro immediato con la regione e la prefettura appunto per valutare anche questa opzione, se da questo punto di vista lì sono arrivate altre novità. Allora direi di no, nel senso che comunque i manifestanti che in un qualche modo, appunto, tra lavoratori dell'accoglienza, sindacati di base, eccetera, hanno trovato anche privatamente, insomma, contattando amici e reti, appunto persone disponibili a ospitare appunto questi rifugiati, continuano a dire che però il comune non può lavarsene le mani e deve contribuire a risolvere il problema. Il numero a cui facevi riferimento, poi appunto lo sentirete nelle parole di Nazarena Zorzella, cioè questi 2000 posti sono su tutto il territorio regionale, e ovviamente questo comunque è comunque un problema se c'è un richiedente asilo che nel frattempo ha trovato un lavoro a Bologna, perché se viene trasferito a Piacenza, voi capite che non è facilmente così proseguibile la sua attività lavorativa, il suo percorso di inserimento sociale. Novità in realtà da Palazzo d'Accursio non ne sono arrivate, almeno che siano a mia conoscenza, insomma, nei confronti prima con gli attivisti e le attiviste. C'è da dire però che appunto questi 2000 posti nei CAS, i CAS sono quelle strutture che non sono di diretta competenza del comune, ma sono di competenza della prefettura e quindi del Ministero dell'Interno. Quello che può fare il comune è vedere se c'è una disponibilità invece nel sistema SPRAR, questo sì che è di competenza anche del comune, e comunque esercitare delle pressioni sul Ministero e sulla prefettura perché questi 2000 posti vacanti vengano riempiti con, appunto, stiamo parlando di un'ottantina di persone, quindi insomma neanche la metà, ma neanche lontanamente la metà, neanche un quarto direi, dei posti vacanti nel sistema di accoglienza. Quindi nei prossimi giorni, nelle prossime ore, conterà anche molto, come dire, l'azione istituzionale che verrà messa in campo. Lì sarà proprio un banco di prova per le istituzioni, per vedere quanto avranno coraggio, perché appunto abbiamo sentito anche le parole del sindaco di oggi, che giustamente attaccava Matteo Salvini, ma come dire, sostanzialmente passava la palla, appunto, si sollevava dalle responsabilità. E francamente questo atteggiamento l'abbiamo già visto anche con la questione dell'iscrizione anagrafica. Ci sono volute delle sentenze appunto di tribunale, grazie ai ricorsi di avvocato di strada e di altre realtà, per indurre anche il comune a coraggiosamente, come dire, dissentire quelle parti di legge che sono illegittime e violano i diritti delle persone. Quindi molto dipenderà anche appunto dall'azione come dire istituzionale, e sarà un banco di prova per vedere da veramente questa maggioranza e questa giunta da che parte stanno. Certo, va bene Ale, io a questo punto direi che ti saluterei, magari ci risentiamo prima della fine di questa puntata. Ci salutiamo tra l'altro con una canzone che hai suggerito tu, che è Sankara di Alfa Blondi. Sankara era il cosiddetto Che Guevara dell'Africa, quindi insomma direi che è una figura che c'entra molto anche con quello che stiamo vivendo. Perfetto, allora ci salutiamo così, ciao, grazie.